Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Salvini no della giunta del Senato sulla richiesta di processo per il caso Open Arms. Italia Viva non ha votato. Il ministro dell'economia Gualtieri dice il decreto rilancio sarà il piano per la ripresa dell'Italia e non solo una risposta ai bisogni del momento. L'agenzia francese del farmaco pronta a sospendere i test clinici sull'idrossiclorochina. Bisogna valutare bene i rischi e i benefici. Scuola fino alle medie, si tornerà in classe a settembre, dalle superiori lezioni anche online. Buongiorno ad Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata, che iniziamo con l'atteso appuntamento al Senato, dove la giunta per le immunità era chiamata a decidere sulla richiesta di processo da parte dei magistrati siciliani sulla vicenda della Open Arms. Sentiamo. Primo no al processo a Matteo Salvini per il caso Open Arms. Con 13 sì, 7 no e 3 senatori che non hanno partecipato al voto, la Giunta per le immunità del Senato ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere per l'ex ministro. Un esito praticamente scontato dopo il colpo di scena arrivato in mattinata con la decisione dei 3 senatori di Italia Viva di non prendere parte al voto e della 5 Stelle Alessandra Ricciardi di votare contro. Così Matteo Salvini. La giunta del Senato questa mattina ha detto, anzi ha votato 13 a 7. Salvini, bloccando quello sbarco nell'agosto scorso, ha fatto il suo dovere, ha agito per interesse pubblico e non per interesse privato. La seduta dell'organismo presieduto da Maurizio Gasparri è iniziata poco dopo le 9. Il pronostico era già da ieri sera a favore dell'ex ministro dell'Interno, sebbene i numeri fossero sul filo. Ma la svolta di oggi di Italia Viva ha dato un esito schiacciante. La parola finale spetta ora al Senato, che entro fine giugno dovrà pronunciare il verdetto definitivo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso veniamo alle parole del ministro dell'economia Gualtieri, che oggi in audizione alla commissione bilancio ha specificato da un lato quale sarà il percorso del decreto rilancio in Parlamento, ha detto è aperto a delle modifiche parlamentari, poi ha spiegato che da questo decreto non arriveranno soltanto risposte nel momento del bisogno, ma potrà essere anche la base ampia, condivisa dal punto di vista parlamentare, speriamo, del rilancio del Paese. Sentiamo. La soluzione magica che in una riga dà a tutti ciò che è giusto è difficilmente perseguibile. Così il ministro Roberto Gualtieri risponde alle critiche sul DL Rilancio, un provvedimento senza precedenti per ampiezza e risorse che contiene un grande piano di ripresa fatto di riforme e investimenti, spiega in audizione il titolare dell'economia. Noi pensiamo che il metodo del dialogo sia essenziale e quindi contiamo naturalmente sull'apporto del Parlamento anche per poter ulteriormente migliorare questo decreto. Il ministro ripercorre le misure, dal taglio IRAP per 2 milioni di imprese, alla cassa in deroga più veloce con l'invito alle regioni a semplificare, all'aumento delle risorse per gli enti locali. Il primo miliardo di euro sarà trasferito venerdì, mentre ieri si è concluso il pagamento della seconda tranche del bonus autonomi, ricorda Gualtieri, precisando che il governo mantiene l'impegno a realizzare una riforma fiscale. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si avvicina alla data del 3 giugno, data per la quale il governo ha previsto il ritorno a libertà di spostamento tra le regioni, ma con alcune condizioni. Si avvicina il momento nel quale il governo dovrà analizzare i dati delle regioni, compararli in modo appunto da poter stabilire quali saranno i limiti a questa libertà di spostamento. Il sistema si basa su 21 parametri, ma è stato rimesso in discussione per alcune possibili disfunzioni. A rischiare in questo momento di rimanere fuori sembrano essere Piemonte e Lombardia. La conferenza delle regioni ha approvato ieri sera le nuove linee guida per la riapertura di terme e centri benessere e per le professioni della montagna. Aggiornate anche le istruzioni per ristorazione, strutture ricettive, piscine e rifugi alpini. Nei giorni scorsi erano arrivate dalle regioni le linee guida per campeggi, circoli ricreativi, cinema e spettacoli, parchi divertimento, sagre e fiere, servizi per infanzia e adolescenza. Le regioni spingono dunque per una riapertura completa dal 3 giugno, ma l'attesa libertà di movimento fuori dai confini della propria regione potrebbe non arrivare per tutti. Il governo deciderà nel corso di questa settimana, d'intesa con le regioni, in base all'andamento dei contagi e dei 21 parametri del Ministero della Salute, e i confini potrebbero rimanere chiusi per le regioni più a rischio, Lombardia, Piemonte e forse Emilia-Romagna. I governatori delle regioni del sud temono l'arrivo di turisti dalle regioni con contagi elevati e si lavora dunque a un compromesso per limitare ancora per una o due settimane i movimenti da queste regioni. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Allora, lo sguardo lo allarghiamo all'andamento dell'epidemia a livello globale. Sono oltre 5 milioni e mezzo i casi al mondo. Sentiamo allora come sta andando, quali sono i paesi più coinvolti e anche i paesi dove si sta cercando di allentare il lockdown. Sono 807 le vittime per coronavirus registrate nelle ultime 24 ore in Brasile, a fronte di oltre 11.000 nuovi contagi. Il numero totale delle vittime nel secondo paese più colpito al mondo dopo gli Stati Uniti è di 23.473. Quasi 375.000 i casi accertati, la metà di quelli registrati in America Latina. Dei 5 milioni e mezzo di casi raggiunti nel mondo, il 30% sono negli Stati Uniti, dove le vittime hanno ormai superato quota 98.000. Mai così tanti morti in un solo giorno anche in Russia, 174 nelle ultime 24 ore, mentre nel Regno Unito il bilancio per l'Istituto di Statistica Nazionale sale a 47.000 contro i 37.000 certificati dal Ministero della Sanità, cifre che in entrambi i casi lo collocano al primo posto in Europa. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca, il GUP di Ragusa, Ivano Infarinato, ha condannato a 9 anni di carcere Rosario Greco, l'uomo che l'11 luglio dell'anno scorso, alla guida del suo SUV, travolse e uccise i due cuginetti Alessio e Simone D'Alessio mentre giocavano davanti all'uscio di casa loro. È saltato in nottata quando il ritiro dei 190 licenziamenti sembrava già cosa fatta. Il tavolo sulla Jabil, tenuto in videoconferenza naturalmente con presente il ministro del lavoro Catalfo, ma anche i rappresentanti sindacali dello stabilimento di Marcianise. Sentiamo. Jabil, l'azienda americana dell'elettronica, dopo 3 giorni di trattative al Ministero del Lavoro, in nottata ha interrotto il confronto e confermato l'intenzione di licenziare 190 dipendenti dello stabilimento di Marcianise in provincia di Caserta. La multinazionale da giugno 2019 aveva annunciato la crisi e la volontà di licenziare 350 lavoratori. Dopo vari stop and go, 160 persone sono state collocate in aziende dell'area, ma dopo lo tsunami Covid, Jabil ha annunciato nuovamente la volontà di licenziare le 190 persone ancora non ricollocate. 3 giorni fa è partita la trattativa alla presenza del ministro del lavoro Catalfo e del sottosegretario al Mise Todde, giunta quasi a un nuovo accordo. Ritirati i licenziamenti, la ricollocazione degli esuberi sarebbe avvenuta sotto il monitoraggio delle istituzioni. Ora il sindacato chiede al governo un ultimo sforzo di mediazione. Vera Viola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora ci occupiamo della vicenda degli assistenti civici, un bando per 60.000 assistenti civici proposto dal ministro per gli affari regionali Boccia in risposta alle preoccupazioni dei sindaci su come gestire la fase 2 per quanto riguarda il rischio di assembramento. È accaduto nelle zone della Movida la sera, ma riguarderà anche le spiagge per esempio questa estate. È un provvedimento che però sta facendo discutere. Daniele Biacchessi. Non avranno poteri sostitutivi alle forze dell'ordine, non saranno incaricati di pubblico servizio. E allora a cosa serviranno i 60.000 assistenti civici che il governo vuole mettere in campo per affiancare gli organismi preposti alla gestione dell'emergenza sanitaria? Se lo domandano in molti, nella maggioranza e nell'opposizione. La proposta del ministro Bosch era stata rivolta alle regioni lo scorso 29 aprile, quando i dati dei contagiati e dei morti viravano ancora verso l'alto. A quei tempi gli italiani erano rintanati nelle proprie abitazioni. Il controllo sociale pareva capillare e non erano possibili gli assembramenti da movida visti in questi giorni in varie parti d'Italia. Il ministro Boccia, appoggiato dal presidente Lanci De Caro, pensa ai volontari per aiutare chi non ce la fa da solo, ma anche per far rispettare il distanziamento sociale, l'uso delle mascherine, il divieto di assembramento. Ma i dati del Viminale dicono che tutte queste violazioni al divieto di assembramento non ci sono state, solo lo 0,55% del totale nel weekend. Nonostante questo, regioni e comuni continuano a muoversi in ordine sparso. A Napoli De Magistris annuncia l'apertura degli spazi anche di notte, in Campania De Luca fermi locali alle 23, a Milano Sala vieta la vendita delle bevande da asporto dalle 19. Proprio questa mancanza di coordinamento generale rende smarriti oggi gli italiani. E dunque il ministro dell'Interno Lamorgese è preoccupata perché teme che questi assistenti civici possano avere controlli e poteri di controllo pubblico. Il presidente Lanci De Caro ha smentito oggi dicendo no, non sarà così, non hanno alcun tipo di questi poteri. Insomma, il provvedimento fa discutere, ne parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno per capire qual è il perimetro di questi assistenti civici e quali sono le critiche che si concentrano su questa misura. Così come parleremo delle piani che ci sono per la scuola, che a questo punto cominciano a essere più chiari. Perché? Perché ieri il comitato istituito dal Ministero dell'Istruzione ha esaurito la prima parte del suo compito, ha delineato queste linee guida che poi sono state girate al comitato tecnico scientifico. Insomma, il percorso è ancora lungo e tormentato. Sentiamo dove siamo arrivati fin qua. Archiviata la didattica a distanza, a settembre gli allievi della scuola dell'infanzia elementare e media torneranno in classe. Si va dunque delineando con sempre maggior chiarezza il rientro in aula degli oltre 8 milioni di studenti delle scuole italiane. Il comitato di esperti voluto dalla ministra Azzolina ha consegnato il rapporto che contiene le indicazioni per la ripartenza, in cui si ribadisce che i bambini devono poter stare in un contesto di socialità. Diversa la situazione alle superiori, dove i ragazzi sono più grandi e possono intervallare un tempo in presenza con un tempo di didattica a distanza almeno nella prima parte dell'anno. Tra le linee suggerite dal comitato di esperti, niente guanti in classe ma obbligo di mascherina, tranne che per i più piccoli della materna, banchi in classe singoli e distanziati e lezioni più brevi dai 30 ai 45 minuti anziché 60 per poter garantire il tempo scuola a tutti. Potrebbe poi essere necessario andare a scuola anche sabato mattina. Fissati i rapporti tra insegnanti e alunni, un adulto ogni 5 allievi alla materna, uno ogni 7 alla primaria e uno ogni 10 a medie superiori. Inoltre bisognerà cercare di far entrare i ragazzi in maniera scaglionata durante la giornata e fare lezione non solo in aula ma anche in parchi, giardini, oratori o in altre strutture. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:13, facciamo un piccolo break, torniamo tra poco con Effetto Giorno, tutte le altre notizie. Come anticipato, torneremo sulla questione degli assistenti civici previsti dal governo, che perimetro hanno, di cosa si dovranno occupare, quali sono le critiche che sono piovute, per dir la verità, da quasi tutto l'arco politico contro questa idea. E poi ripartiremo dalla scuola, perché il comitato istituito dalla ministra Azzolina ha finito la prima parte del suo lavoro, vediamo di cominciare a tirare le fila e cercheremo di capire alle 13:30 che cosa si sa della riapertura della scuola a settembre, con grande ritardo, bisogna dirlo, ancora con tanti punti interrogativi, perché il percorso non è ancora finito. Una sintesi ancora non c'è. 349-238-6666. Siamo qua con anche con la pagina Facebook di Effetto Giorno. Tra poco. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Salvini: no della giunta del Senato alla richiesta di processo per il caso Open Arms. Italia Viva non ha votato. L'agenzia francese del farmaco intende sospendere i test clinici a base di idroclorochina. Manca la valutazione costi-benefici. Scuola: fino alle medie si torna in classe a settembre, alle superiori lezioni anche online. 13:17, eccoci qua in diretta, cari ascoltatori, con Effetto Giorno. Allora, come anticipato, ci occupiamo della questione degli assistenti civici. Un bando per 60.000 persone istituito dal previsto dal governo, in particolare dal ministro per gli affari regionali Boccia, che a quanto si è capito ha così cercato di rispondere alle preoccupazioni dei sindaci, in linea col presidente dell'ANCI De Caro, sulla questione dei controlli, soprattutto per quanto riguarda gli accessi di assembramenti nei giorni della movida, la sera, ma anche si è pensato in spiaggia o in altre situazioni simili. Un provvedimento però che è stato molto criticato anche all'interno della stessa maggioranza. Il ministro dell'interno Lamorgese teme che ci possa essere un rischio di abusi per quanto riguarda la funzione del controllo dell'ordine, che naturalmente, capite, è molto vicino a quello che si è pensato per questi assistenti civici. De Caro ha specificato: no, non avranno compiti di ordine pubblico, però un conto è dirlo, un conto poi è capire quali saranno le difficoltà concrete a gestire questo questo lavoro. De Caro poi ha specificato: sono quei volontari, dice, che già in questo periodo ci hanno aiutato a dare una mano portando i medicinali e la spesa a casa delle persone. Però sembra una cosa completamente diversa rispetto a quanto invece uscito inizialmente. Insomma, cerchiamo di capirne qualche cosa di più e lo facciamo insieme a Patrizio Losi, che è presidente del Comitato Nazionale del Volontariato di Protezione Civile. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Allora, mi sentite bene? Forte sì, e chiaro. Con un telefono, ok. Forte e chiaro. Chiaro, perfetto, visto allora, che la mia ecco, sì, provenienza è cardiomatoriale, per cui forte e chiaro va bene. Benissimo. Losi, che come Presidente del Comitato Nazionale del Volontariato della Protezione Civile non è, al di là dell'aspetto nominalistico, non è qualcuno che è dentro questo bando, perché è un volontariato diverso. La Protezione Civile, questo comitato che lei presiede, svolge attività di, garantita la partecipazione dei volontari al Servizio Nazionale della Protezione Civile, e lo fate con delle modalità standard, che sono quelle che sono state poi anche ricordate spesso da Borrelli, con tanti ringraziamenti alle tante persone che coordinate e avete coordinato in questo periodo. Io le voglio chiedere intanto, lei che cosa ha capito di questo bando, che ha creato più critici che convinti, più perplessità che persone convinte? Cosa dovrebbero farsi assistenti civici? Allora, intanto partendo da due parole che hai detto tu nella preparazione di questa intervista, che mi sono segnato: controlli e i volontari, che hanno la battuta di De Caro, che ha detto che sono i medesimi volontari. Assolutamente no. Intanto, il bando che deve ancora essere costruito, ma c'è semplicemente un'ordinanza del capo dipartimento, cioè di Borrelli, che dice che verranno istituiti questi, e che ci sarà un bando, però le regole del bando non le conosciamo ancora, pertanto quali saranno le specificità non le sappiamo. Sappiamo a livello generico che dovranno fare alcune cose, sicuramente non dovranno fare i controlli, per cui la parola controlli virgolettata non esiste, cioè non controlla nessuno. Al massimo potranno essere semplicemente dei megafoni delle ordinanze del sindaco, delle ordinanze del capo dipartimento, delle ordinanze del cioè del come dei ministro. Cartelli umani viventi, no? Vi ricordo che dovete stare a distanza, dopodiché è chiaro che i cittadini, se vorranno ascoltarli, li ascolteranno; quelli che non avranno buon senso e non si interesseranno di questi. Comunque hai centrato con un esempio un po' bruttino, però cartelli umani va benissimo. Sì, no, l'ho detto come spesso mi capita, con un'espressione non poetica, non bella, non degna di altri colleghi più bravi. Però è molto chiaro, cioè, capisce, io riporto a te sul territorio della movida una determinata situazione, per cui assolutamente lontanissimi dai controlli. E poi vorrei interagire su quale discorso, però non sono gli stessi volontari, stiamo parlando di due cose completamente diverse. Ok, Losi, però fermandosi un attimo già su questa prima considerazione, che mi sembra importante, che aiuta a capire: se non avranno e non possono avere queste funzioni di controllo, ma saranno appunto megafoni delle ordinanze dei sindaci, o come ho detto io, cartelli umani viventi, state distanti, mettetevi la mascherina, potranno servire a qualche cosa delle funzioni del genere, o saranno allora del tutto inutili? Noi abbiamo l'esperienza, parlo di protezione civile, perché questo tipo di attività nell'ambito della protezione civile è spesso stata utilizzata a fronte di situazioni emergenziali pesanti. per cui blocco di una zona rossa per Amatrice piuttosto che altre situazioni di quello che è il turismo dell'emergenza della domenica, che tutti i turisti vanno a vedere dove ci sono stati i crolli, per cui i volontari sono alle transenne di zone rosse, ma non fermano il traffico se non c'è l'ordine pubblico, cioè se non c'è un poliziotto o quant'altro, però questo tipo di attività è addirittura nell'ambito di nostre formazioni specifiche interne, che si chiama comunicazione con la popolazione, che vuol dire che un volontario di protezione civile sì. Fa questo tipo di attività, se ovviamente richiesto, però a fronte di un corso, di una formazione specifica, perché è facile anche che scatenare risse o altre situazioni, per cui questo tipo di comunicazione può servire se c'è una preparazione, cioè se alle spalle c'è una preparazione. Ecco, ma lei che sensazione ha, Losi, che con questo bando per questi assistenti civici si pensi anche a un percorso serio di formazione come fate voi con i vostri, visto che poi l'emergenza il 31 luglio scade, a quel che abbiamo capito sembrerebbe una cosa da fare, diciamo, adesso per usarla adesso, non so se c'è tempo di fare la formazione e si torna, a cosa servirebbe allora? Allora, le riflessioni che ci hanno portato il Comitato Nazionale, che intanto preciso rappresenta tutto il mondo del volontariato, per cui sia il volontariato delle grandi organizzazioni nazionali, per cui Croce Rossa, Vigili del Fuoco in congedo, o l'Associazione Nazionale, sì. Fino a tutta la componente territoriale che è rappresentata da Dario Pasini, nell'ambito di tutte le micro associazioni che ci sono a livello locale. Tutto il mondo ieri, con un'operazione molto complessa, è riuscita comunque a confrontarsi, a discutere, e siamo usciti con la comunicato stampa alle 23 proprio per questo motivo, perché c'è stata una grande condivisione. Ecco, ci faccia un po' un condensato, un sunto dei vostri dubbi e critiche. Il condensato dei nostri dubbi è che intanto la comunicazione è stata sbagliata, cioè il mondo del volontariato non c'entra, il mondo del volontariato in primis perché nasce con i suoi principi, cioè noi il volontario di protezione civile ha dei principi interni per cui fa il volontario, e se fa il volontario di protezione civile vuol dire che c'è una formazione. Tutto questo nelle comunicazioni che sono arrivate alla popolazione assolutamente siamo lontanissimi, cioè si parla di un bando, un click day dove la gente dove i nostri concittadini si iscriveranno, l'unico requisito potrà essere solo che sappiano camminare e respirare, voglio dire, per cui ci potrà essere una 60.000 persone di cui noi non sappiamo assolutamente nulla, non c'è nessun filtro. Questi verranno messi a disposizione dei sindaci. E qui la prima cosa, il bisogno c'è. Cioè in questo momento i sindaci... Ma per che cosa, Losi, visto che lei appunto coordina la partecipazione dei volontari al servizio della protezione civile? C'è ancora tutta un'attività nei centri operativi comunali molto... molto forte, che è banalmente l'apertura e la chiusura dei parchi, il controllo dei parchi, semplicemente tutta una serie di attività che in questo momento tutti i comuni erano fatte con senza personale, che oggi devono essere fatte con personale, con persone, per cui i comuni, i sistemi locali non sono in grado di fare questo. Ma possiamo fare qualche esempio? Perché in effetti io non ho, anche per poi risalire a quella che è, diciamo, l'origine di questo bando, perché da un lato si capisce che c'è il tema della movida che ha preoccupato i sindaci. Però mi sembra che lì non ci si possa andare in quella direzione, perché figurati se un volontario... Tu adesso ti userò il sistema. Si prenderebbero degli schiaffoni, che ce li immaginiamo. Sicuro, poi c'è quello che dice De Caro, sono quelli che hanno dato una mano a fare la spesa, a portare invece, no, però non quelli, sembra allora, neanche quelli. Quelli erano i nostri professionisti, quelli erano i volontari di protezione civile. Ma allora che cosa? Andrebbero ad aiutare a fare questo tipo di attività. Stiamo parlando proprio delle stesse identiche cose, però non fatte dai volontari di protezione civile, per cui gradualmente tutto questo tipo di attività dovrebbe essere passato in mano alle organizzazioni del terzo settore, che sono loro, e questa è la critica forte. Quando noi parliamo di andare a fare la spesa, permettetemi un termine bruttissimo, al povero Cristo, cioè alla persona che non ha la capacità di andare magari a muoversi per motivi suoi, per handicap o tutto quello che è, o meglio in questa emergenza quarantena, se assolutamente, questo è sacrosanto. Ora, Oggi l'abbiamo fatto noi in emergenza, volontari di protezione civile, perché noi siamo predisposti a fare determinati tipi di attività quando il rischio è alto, quando la situazione è drammatica. Ma lei dice però questa cosa deve diventare... Queste cose le hanno sempre fatte le grandi associazioni, sì, del terzo settore. Abbiamo tutto l'apparato dei servizi civili, del servizio civile, che ha sempre fatto questo tipo di attività. Ci sono tutte le organizzazioni, vorrei citare la allora, vediamo Caritas, scusi Losi, vediamo se è quello che deve essere utilizzato. Vediamo se capisco e se riesco, diciamo, a tradurre dal linguaggio anche un po' tecnico della protezione, cioè del mondo del volontariato, a un linguaggio più semplice. Cioè, questo servizio di aiutare le persone in quarantena, per esempio, ma anche di gestire tutta una serie di servizi come per esempio la questione dei parchi, aprire e chiudere, sanificare, ma quello sono, diciamo, opera dei dipendenti comunali, insomma tutti questi servizi qua che voi in questa fase di emergenza avete coadiuvato i comuni a realizzare. Adesso vedete, piano piano questo dovrebbe andare a regime, dovrebbero occuparsi l'associazione del territorio, del volontariato normalmente. Questi 60.000, domanda, potrebbero essere una, come dire, una coperta per gestire il passaggio dalla protezione civile, emergenza, a una situazione di normalità quando poi saranno i territori a farlo? Potrebbe essere questo? Però dobbiamo mettere alcuni paletti, e questo i paletti che noi abbiamo messo, ma sono forti. Cioè, esempio, simbolo protezione civile, può essere una cosa banale, ma però ti posso assicurare che è la nostra bandiera. Per poter mettere un volontario di protezione civile, stiamo parlando di 500-600 mila volontari di protezione civile in Italia, per poter mettere sulla propria casacca il simbolo della protezione civile nazionale, sì, questo logo del triangolo spuntato, arrotondato, a significare che la protezione civile serve per arrotondare gli spigoli, è un percorso di formazione, di sacrifici. Cioè, il volontario di protezione civile per sua scelta fa formazione, eccetera, arriva ad arrivare fino a che potrà mettere sulla sua casacca il simbolo della protezione civile. Questo percorso è un percorso di sacrificio. Se tu semplicemente con un click day ti iscrivi a questo bando e il giorno dopo ti danno una casacca col simbolo della protezione civile, capisci che 700.000 persone che si sono fatti un mazzo, non ci siamo. Ma se vi chiedessero di gestire a voi questo passaggio e creare questa ulteriore cintura, questa ulteriore rete un pochino più allargata, sareste disponibili? Queste sono le cose su cui si sta ragionando. Intanto ecco le cose fondamentali: il bisogno c'è, su quello non ci piove, perché il mondo del volontariato della protezione civile piano piano si sta, ovviamente sta ritornando alla normalità, il che vuol dire che sono volontari e ritornano anche a lavorare perché hanno delle famiglie da mantenere. Vabbè, il bisogno, scusa Losi, a questo punto abbiamo capito, il bisogno c'è, voi siete disponibili eventualmente a dare una mano, mancano le regole. Ecco, le regole fuori di testa, cioè così com'è non va bene, cioè il mondo del volontariato e protezione civile non c'entra nulla, noi possiamo dare una mano, possiamo collaborare. Comunque, però fare l'equivalenza che questi volontari che con un click day diventano la stessa cosa. Va bene, questo è chiarissimo, l'hai già detto. Allora, a questo punto io ti ringrazio, Patrizio Losi, per essere stato con noi. La conclusione, diciamo, temporanea, momentanea, è questa, per quanto è dato capire. Allora, il bando non esiste ancora perché esiste un'ordinanza di Borrelli che prevede questo bando. Quando verrà scritto il bando, ci saranno dentro le regole. Ecco, allora lì bisognerà stare attenti a scriverle bene, anche sulla base delle sollecitazioni che sono arrivate in queste ore, proprio ieri sera, da tante associazioni di volontariato, compresa quella della protezione civile, che insomma un po' di esperienza in fatto di volontari ce l'hanno. A monte di tutto questo poi ci sono valutazioni sul fatto se è giusto essere volontari, non essere volontari, essere pagati, non essere pagati, un paese che si riduce con i volontari. Queste sono riflessioni che ci stanno, giustissime. Noi abbiamo solo voluto fotografare la situazione per quanto riguarda questo bando, capire quali sono le intenzioni. 349-238-6666 per intervenire con i vostri messaggi e commentare questo. Regia, abbiamo tempo di sentire la questione dei libri? Sì, sentiamola, perché sono stati diffusi oggi, e apriamo un'altra finestra, i dati sulla vendite dei libri e anche in qualche modo indagini qualitative su cercare di capire quanto si è letto, perché chi di noi non ha detto: beh, adesso avrò tanto tempo a casa, mi leggerò tutti quei bei libri che volevo leggere. Chi l'ha fatto poi effettivamente? Alessandra Tedesco. Il calo di fatturato per il mercato del libro è stato netto, meno 20% da gennaio ad aprile. Fra librerie, online e grande distribuzione c'è stata una perdita di 90 milioni di euro. Sono state vendute 8 milioni di copie in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo dice l'AIE, l'associazione editori, che ha elaborato una ricerca con Nielsen e informazioni editoriali. Hanno retto un po' di più i libri per ragazzi, che hanno perso solo, si fa per dire, il 16%. Con la chiusura per oltre un mese, con differenze da regione a regione, le librerie hanno registrato un calo del fatturato in media dell'85%. Hanno arginato le perdite quelle che hanno assicurato le consegne a domicilio. Per contro, gli store online hanno guadagnato spazio. Da gennaio ad aprile hanno coperto quasi il 50% del mercato rispetto al 27% del 2019. Abbiamo dunque comprato online, abbiamo anche comprato più ebook, boom dei prestiti digitali delle biblioteche, aumenti a tre cifre. Insomma, questo periodo di lockdown ha modificato le abitudini dei lettori, ma se si tratta di un cambiamento strutturale è troppo presto per dirlo. Non possiamo neanche dire se abbiamo letto di più o di meno. Sui social molti lettori hanno detto di aver fatto fatica a concentrarsi. Quello che invece possiamo dire è che in questo periodo si è sentita soprattutto la necessità di leggere qualcosa per comprendere meglio il periodo o ritrovare le stesse atmosfere. Ecco spiegato il successo di Spillover dell'americano David Quammen, pubblicato in Italia nel 2014 e che parla di come avvenga il salto di specie dei virus e la peste di Camus, grande classico del genere pandemia. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E allora, alle 13:32 minuti facciamo un piccolo break, torniamo tra poco. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Vi anticipo che parleremo con uno dei membri del comitato del ministro dell'istruzione Azzolina, che ha avuto il compito di capire come, quando rientrare a scuola. Da tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Salvini, la giunta del Senato dice no alla richiesta di processo per il caso Open Arms. Italia Viva non ha votato. L'agenzia francese del farmaco intende sospendere i test clinici a base di clorochina. Manca la valutazione costi-benefici. Scuola, ecco le novità del comitato. Fino alle medie si torna in classe a settembre, alle superiori lezioni anche online. Ne parliamo tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, cari ascoltatori, con Effetto Giorno. I vostri messaggi al 349-238-6666. Vediamo velocemente sul tema degli assistenti civici. Scrive Riccardo da Milano, lo sfiduciato direi. I volontari servono per fare quello che i dipendenti pubblici non hanno voglia di fare, come al solito. E questo è uno. Poi ce ne sono tanti. Liliana scrive ci vorrebbe, basterebbe fare l'educazione civica a scuola come una volta. Liliana, diciamo, è la nostalgica in questo caso. Io sono sempre favorevole all'educazione civica a scuola, anche se qui si sta parlando di qualche cosa di un po' di più. Poi abbiamo ancora l'ascoltatore che, eccolo qua, che disastro di paese, c'è un ente, un'associazione per tutto, dice questo ascoltatore, che lo definirei un pessimista realista, e devo dire che non ha tutti i torti, perché non ci sarebbe niente di strano, anzi sarebbe un fatto positivo mobilitare il volontariato, le energie delle persone in una fase difficile come questa. Ci mancherebbe altro. Il problema è, sembra un po' il contesto italiano attuale, un paese sfilacciato in questa fase 2, dove tutte le colonne sulle quali avremmo dovuto appoggiarci sembrano mancare. I test sierologici sono partiti, se sono partiti, con quasi un mese di ritardo. La app è in ritardo, non si sa ancora se il percorso è accertato. Oggi l'assessore alla Liguria, sanità della Liguria, dice che non vorrà sperimentare questa app. La questione dei tamponi, che si sono aumentati ma ancora troppo pochi, ha spiegato benissimo in un suo articolo Milena Gabbanella sul Corriere della Sera, Gabbanelli, come basterebbe passare al sistema aperto con macchinari gestiti da persone anziché macchinari chiusi, dove i reagenti te li puoi anche autoprodurre in casa. Potremmo fare tutti i tamponi che vogliamo, però bisognerebbe investire sulle persone, così come investire sulle persone sarebbe mobilitare chi prende il reddito di cittadinanza. Possibile che non ci sia nessuno che va bene per il lavoro nei campi, nessuno che va bene per fare lo steward? La scuola è ferma. Ecco, in questo contesto di stagnazione e di pilastri che ci vengono a mancare, parlare del volontariato sembra proprio una toppa. Piace dirlo, ma sembra proprio una toppa, l'ennesima occasione sprecata, perché poi invece il volontariato è una forma nobile, elevatissima di mobilitazione delle energie umane. Va bene, detto questo, in risposta un po' ai vostri messaggi, che sono di prevalente sfiducia su questo tema degli assistenti civici, come non condividere la sfiducia, ma bisogna poi invece credere che se ne uscirà bene. Manteniamolo l'ottimismo, quello sempre. Sentiamo il punto del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. Domani la Commissione europea annuncerà quale sarà il piano per la ripresa. Il recovery plan, di cui sentiamo parlare da un po', almeno da quando Angela Merkel ed Emmanuel Macron hanno presentato il loro piano, per certi versi sorprendente. 500 miliardi di euro da destinare a fondo perduto a chi più ha patito la crisi da coronavirus. E l'Italia in questo ha un triste primato. Il dibattito della politica in casa nostra riduce tutto a quanto sia il malloppo arraffabile. E rilancia a raddoppio 1000 euro. Ma ciò che sottovaluta è la complessità della proposta europea, che mette in campo una vera e propria nuova idea di politica industriale continentale, con tanto di campioni europei da tutelare e di investimenti da programmare in progetti comuni. E questo è l'aspetto che finora l'Italia ha considerato poco o nulla. Ma è importante valutare bene la posta in gioco. Non sarebbe un grande affare lucrare un po' di sussidi e perdere la partita dello sviluppo futuro, o giocarla solo in qualche cono d'ombra lasciato dai partner. E allora, 13.42, come anticipato, parliamo di scuola con uno dei membri del comitato di esperti convocato dal ministro dell'istruzione Azzolina. Lui è Giulio Ceppi, architetto, designer, ricercatore e docente incaricato presso il Politecnico di Milano. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito, Ceppi. Allora, lei nella vita si occupa normalmente di, è un architetto di design, di progettazione sensoriale. Lei si aspettava una convocazione del genere intanto? In che ruolo in qualche modo è stato definito il suo ingaggio, giusto per avere un'idea? Allora, di sicuro non me l'aspettavo, sono assolutamente onesto, ma mi ha fatto assolutamente piacere. E credo, ecco, nel mondo dell'edilizia scolastica, degli ambienti, ecco, di apprendimento, di aver maturato non solo al Politecnico, ma anche ad esempio con una collaborazione ultraventennale con le scuole di Reggio Emilia, con Reggio Cile, un po' di esperienza. Nell'ambito dei materiali per la scuola, la progettazione anche di ambiti scolastici, quindi aveva anche una competenza forte da questo punto di vista. Senta, Ceppi, sì, perché molti sono chiesti come mai tanti professori universitari e pochi insegnanti, ma questo è un altro tema, non facciamo passi indietro. Adesso io le voglio chiedere qual è stato il percorso che avete fatto partendo dall'inizio, cioè ricordiamoci, sì, no? Qual è l'ostacolo, il problema oggi che dobbiamo superare, perché non ci sono i ragazzi in classe oggi? Allora, innanzitutto le rispondo sul fatto del come stiamo lavorando, perché noi abbiamo ancora 2 mesi di lavoro, anche se ovviamente c'è una prima fase di emergenza e di urgenza a cui rispondere, e infatti Patrizio Bianchi, che è il coordinatore della commissione, ha diviso in 2 gruppi, siamo in 18 e ci sono anche pedagogisti, ci sono psicologi, ci sono giuristi, ci sono economisti, quindi un gruppo veramente molto interdisciplinare, ci sono anche presidi, ci sono anche docenti, quindi c'è, credo, una panoramica abbastanza completa. E siamo divisi il punto in due di partenza, però, qual è stato? Scusi, Ceppi, cioè, nel senso, al di là di come funziona il comitato, che può essere interessante, però non vorrei perdere tempo prezioso, perché tanti si domandano perché ancora oggi, visto che in Germania comunque ci hanno provato, ci stanno provando, in Francia idem, in Italia no. Qual è il nostro problema oggi? Il punto di partenza è proprio rispondere all'emergenza, ma con una prospettiva anche a lunga visione, quindi non farsi prendere dal panico, della evenienzialità, del rispondere subito a quello che sta succedendo adesso, perché siamo in una situazione che comunque ha un tasso di imprevedibilità e di dinamicità molto elevato, quindi dare delle risposte contingenti da una parte va fatto, ma dall'altra stiamo facendo, come le dicevo, un lavoro complementare sul lungo periodo per approfittare questa emergenza, proprio per far passare delle attitudini, dei comportamenti, delle normative. Prima qualcuno, suo collega, parlava dell'importanza di investire sulle persone. Ecco, la scuola è una comunità in apprendimento, ha un bisogno tremendo di investimento sulle persone, sulle figure dei docenti, degli amministratori, ma anche di professionisti che possono dialogare di più con la scuola. Sì, il nostro obiettivo. Io capisco l'obiettivo di fondo della filosofia, lei che ci sta trasmettendo, è quello di dire: investiamo comunque sugli ambienti, sulle risorse, sulla struttura della scuola in un momento critico, perché questo è un investimento che facciamo adesso, ma che ci servirà poi sicuramente per migliorarci anche dopo. Però bisogna dare anche una risposta. Adesso a giugno si è comunque rinunciato a rientrare a scuola, anche se per esempio le scuole materne durano fino al 30 giugno con possibilità di andare al 30 luglio. Si poteva tentare, però si è deciso comunque di andare a settembre. Però per il rientro a settembre, per dare questa invece risposta emergenziale, che tipo di ragionamenti avete fatto per esempio sulla questione degli spazi? Cioè c'è un problema di spazi nelle scuole? Io immagino che bisognerà avere delle aule abbastanza grandi per poter, come dire, contenere un numero sufficientemente non troppo elevato di studenti. Avete un criterio, una misurazione, un rapporto, un quadro di sintesi? Quanto spazio manca per poter gestire questa situazione a settembre? Allora, stiamo pensando allo spazio come articolato su tre piattaforme, su tre modalità. Ci sarà lo spazio in presenza in aula, in cui dovrà essere applicata la logica del distanziamento, e quindi è chiaro che gli spazi, se erano già affollati prima, non basteranno più. Quindi stiamo operando con dei patti di comunità, che sono degli accordi che passano prima attraverso il demanio a livello nazionale, ma poi si possono declinare a livello regionale fino a livello comunale, perché la scuola trovi degli altri spazi, perché non è che possiamo pensare in tre mesi e neanche avrebbe senso di raddoppiare la volumetria delle scuole, non è certo quello il tema. Cioè spazi temporanei che possono essere d'appoggio per dividere poi le classi. C'è la didattica a distanza, e poi c'è un terzo spazio, che è uno spazio tra virgolette virtuale, o che coincide con lo spazio della casa. Quindi giocando su queste tre piattaforme si riesce, ma ogni scuola deve trovare anche la propria soluzione in base al tipo di edificio, in base al tipo di studenti, in base alla capacità dei docenti di organizzarsi. Cioè, bisogna far sì, ecco, che ci si responsabilizzi, perché dico solo questo. Sì. Io credo che sia un po' ingenuo pensare che ci sia un logaritmo, una formula, e che lo Stato che risolve trovi tutto. Una soluzione che ecco, funziona. Ecco, però Cepia, a questo proposito, non può essere così. Io le voglio chiedere, ci sarà autonomia, nel senso che, le faccio una domanda prima, se abbiamo capito bene, elementari e medie dovrebbero poter non fare didattica a distanza, se abbiamo capito bene, giusto? Se ci hanno gli spazi, ovviamente sì. Qui esatto. Sembra che la quadra si sia in qualche modo trovata, perché il rapporto alunni-docenti è più favorevole. Per le superiori, invece, sicuramente si dovrà fare della didattica a distanza, ma giusto? Anche perché c'è una maturità diversa dei ragazzi e una capacità tecnica diversa. Avete una percentuale, un ordine, un parametro, un criterio, cioè un 10%, un 15%, un 40%, un'idea per far capire alle famiglie quanto sarà importante la didattica a distanza a settembre? Allora, siccome giustamente le famiglie sono una parte importante, ma c'è anche una parte, chiamiamola sindacale, legata all'INAI, legata alle condizioni del personale docente, che ahimè in Italia è il più anziano d'Europa, noi dobbiamo anche salvaguardare territorio per territorio quelle che sono le caratteristiche di popolosità. Quindi ci saranno differenze territoriali, cioè sarà possibile che delle scuole non fanno didattica a distanza e delle scuole sì. Esatto, e bisogna in questo, ecco, come dicevo, noi stiamo dando degli obiettivi, dei criteri, delle guideline, dei parametri, ma poi bisogna che in maniera concertata con le famiglie, con i docenti, con la direzione della scuola, con i ragazzi, ogni scuola trovi la sua formula, ecco. Perché io sono rimasto molto divertito. C'è la possibilità, scusi Ceppi, prima di salutarci, che quest'estate non passi in vano, cioè che nelle scuole effettivamente si lavori per questo. Non vorrei, perché adesso voi terminate il vostro lavoro, finite il comitato, poi ci sarà il comitato tecnico scientifico, il ministero tirerà le somme, arriveremo a metà giugno, a giugno inoltrate, eccetera, poi immagino tutti andranno in vacanza, i docenti andranno in vacanza, e poi a settembre che succede? No, a ragione, ma 300 milioni di euro so che sono già stati praticamente deliberati, perché è chiaro che bisogna cominciare, anche se con soluzioni leggere, veloci, reversibili, a lavorare da adesso. Va bene, speriamo. Scusi, io devo chiudere perché mi ero distratto, siamo andati lunghi sulle informazioni sul traffico. Grazie Giulio Ceppi, magari torneremo a sentirci più avanti quando il comitato avrà fatto un altro pezzettino di strada. Traffico, torniamo tra un attimo. Effetto giorno. Eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori, con Effetto giorno. Ciao Carlo Genta. Ciao, buongiorno a tutti. Carlo, allora, ieri ci hai dato un punto di partenza o d'arrivo, non ho capito, insomma, spiega un attimo cosa succede. Verranno così ufficializzate le date di ripresa del campionato italiano. L'ipotesi più probabile è che nel weekend del 13 si potranno giocare le gare da recuperare e poi a pieno regime dal weekend successivo. Sembra tutto al momento abbastanza scritto e scontato, manca solo l'ufficialità, come direbbero quelli bravi. Intanto il campionato italiano perde un protagonista che è Ibrahimovic, che ieri si è fatto male, oggi la diagnosi, lesione al muscolo del polpaccio, non è interessato al tendine d'Achille, però per lui con ogni probabilità questa stagione che va a ricominciare sarà già finita e se ne riparla l'anno prossimo. Sarà l'occasione per fare un punto sul Milan, sul calcio milanese, sulla ripresa del campionato. Ci sentiamo tra una decina di minuti. Grazie Carlo, noi ci risentiremo anche nei prossimi giorni, faremo un po' la volata per questo appuntamento di giovedì, per vedere se per gli appassionati di calcio, che sono tanti, insomma, si potrà quantomeno tornare a vedere il calcio in TV, un elemento così di normalità, di ritorno a una parte della nostra normalità. Sicuramente alcune cose ci sono mancate, altre ci sono mancate un po' meno, sarà interessante fare un bilancio anche su questo. Ci è mancato sicuramente Giampaolo Musumeci. Ciao Giampaolo. Buongiorno Alessio, buongiorno a tutti. Non che ci sia mancato Giampaolo, nel senso che non avremmo voluto avere Giulia Crivelli come abbiamo tutti i giorni, ma insomma Giulia Crivelli è la nostra voce della lettura dei giornali internazionali tutti i giorni, però ci piace anche ogni tanto fare un'incursione in nessun luogo è lontano, quando Giulia è assente giustificata, e tu invece sei... Io sono presente e ingiustificato. Come sempre. È questa, come ogni tanto, e anche oggi l'abbiamo fatta. Anche oggi l'abbiamo fatta, smarchiamola Alessio. Allora, su cosa state lavorando oggi, Giampaolo? Ma oggi andremo in Siria e vi racconteremo una figura molto importante del regime siriano, di cui ti do il nome in codice, Mister 5%. Rami Makhlouf, parente di Bashar al-Assad, e potente cugino del dittatore siriano, si fa chiamare Mister 5%, perché lui intanto da anni ha in mano il 60% dell'economia siriana. Per ogni transazione economica sostanzialmente chiedeva appunto questa moderata cifra, parcella, per le sue prestazioni, esatto, per le sue parcelle professionali. Lui è proprietario fra l'altro di Siriatel, che è la principale compagnia telefonica del paese. Fino a pochi mesi fa lui e Bashar al-Assad andavano a braccetto, insomma le cose sembravano andare veramente bene, e anche sul fronte bellico per Bashar al-Assad andavano bene. C'era l'appoggio dell'Iran con gli Hezbollah, libanesi e non solo, c'era la Russia ovviamente, che tante volte abbiamo raccontato, che sembra lì per cadere. Nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, complice il Covid-19, la recessione all'orizzonte anche per Iran e per Russia, e ormai una lotta incredibile proprio con Makhlouf, tanto che Bashar al-Assad ha tentato di sequestrargli i beni per decine e decine di milioni di euro, sembra che improvvisamente il regime siriano possa sgretolarsi da un momento all'altro. E come scrive qualche analista, forse è il momento, dal 2011 a adesso, dall'inizio della cosiddetta primavera araba, in cui Bashar al-Assad è proprio più debole. Quindi cercheremo di capire bene che cosa significa e quali saranno le nuove relazioni in quel quadrante così importante. Quindi viaggeremo tra Damasco, Mosca e naturalmente Teheran, per raccontarvi un po' queste relazioni pericolose, ecco, potremmo ribattezzarle in questo modo. Sempre molto interessante, con cose che sinceramente capita raramente di sentire altrove. Che cos'altro, Giampaolo, per oggi? Qual è il quadrante delle notizie oggi? Ma guarda, stiamo scorrendo ovviamente tendenzialmente quello che chiamiamo nel nostro discorso internazionale. No, c'è un problemino con la linea. con Giampaolo Musumeci, vediamo se lo riprendiamo o se vogliamo chiuderla col telefono. Sentiamo un attimo, Giampaolo. Mi qua, vediamo. Sì, perfetto, vai. Eccoci qua. Allora, stiamo come sempre tenendo d'occhio come la grande stampa internazionale sta coprendo i vari eventi con delle differenze. Beh, per esempio la BBC dà ampio spazio a Cummings, lo ricorderete, l'aiuto quello che era andato a trovare il numero 10. Esattamente. Quarantena, attentato in provvida difesa. E non si poteva, insomma, qualcosa di indifendibile anche per il mondo anglosassone, così ligio alle regole. Questo sulla BBC, che dà ampio spazio, ovviamente. New York riporta un'analisi molto molto efficace su quello che è il momento più fulgido forse dei talebani in Afghanistan da 20 anni a questa parte. L'abbiamo spesso raccontata, nessun luogo lontano. Hanno truppe americane pronte a ritirarsi, prigionieri talebani che iniziano a venire rilasciati dalle prigioni di Kabul. Insomma, potrebbe essere davvero un momento storico in cui i talebani vengono istituzionalizzati, entrano nell'alveo della normalità afghana, ecco. Se di normalità si può parlare. Infine, interessante Le Monde, perché sul sito internet apre con l'agenzia del farmaco francese che dice: attenzione, sospendete gli esperimenti, i test con l'idrossiclorichina. Infatti è vero, è una notizia che abbiamo dato anche noi, che abbiamo dato anche noi questa mattina. Grazie Giampaolo Musumeci, dalle 16 alle 17 con Nessun Luogo è Lontano. È tutto per la puntata di Effetto Giorno di oggi, con Carmelo Roliscella in regia, Claudia Schiattoni in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione, da Alessio Maurizi l'auguro di una buona giornata. Ciao.